Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miria Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Vabbè, io lavoro anche meno, ringrazio Anacleto, il nostro straordinario ascoltatore, amico dalla chiesina, che ci ha mandato questa presigla che ogni tanto utilizziamo, perché così lavoro meno, ha presentato tutti lui in redazione. A me non resta che salutare e ringraziare anche Luca Cremonese, che oggi in regia ci aiuta, ci coordina, ci assiste. E tutto qui, dalla ridotta di Viale Monza è tutto, ci sentiamo domani, arrivederci con una nuova puntata di Uno Nessuno 100.000. Eccoci, buongiorno. Sì, scherzavo, no, però le presentazioni sono state fatte, siamo insieme per 3 mezz'ore fino alle 10.30 e, con voi. 800 24 00 24 è il numero di telefono magico per mettervi in contatto e dire la vostra in questo momento di ripartenza lenta. Si riapre. Se avete segnato col cerchiolino rosso il 4 maggio sul vostro calendario, avete preso tutti i vostri calendari, anche quelli digitali, avete messo 4 maggio. Cosa succede dal 4 maggio? Vabbè, adesso non è che volete sapere tutto in anticipo, ve lo comunicherà con calma il Presidente del Consiglio Conte, dopo che la task force e le varie task forces, plurale, o tasks force, no, task forces, avranno messo a punto un piano di ripartenza. Voi segnatevi 4 maggio, che non sia mai che si salti anche il ponte del 1 maggio, non andrete da nessuna parte. Però intanto il ponte si fa e quindi dal 4 maggio si riparte. 349 238 6666 è il numero per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi SMS, i vostri audio e infine la mail 100.000@radio24.it. Oggi parleremo di scuole paritarie, ma non solo, parleremo di anziani. Parleremo di tante tematiche, parleremo anche di lingua italiana e lingua straniera, visto che, come avete sentito di recente, tra droplet, lockdown, plateau e chi più ne ha più ne metta, davvero abbiamo fatto incetta di termini stranieri che non se ne può più, a dire il vero. Vai, Alpino! Enthusiasm about the future. Allora, 4 maggio l'avete segnato, ora come si riparte? Questo un pochino in realtà si evince dai giornali, se ho capito bene. Le cose fondamentali sono le mascherine, anche se sono introvabili e costose, però rassegnatevi, questo sarà. Saranno vietati gli spostamenti tra le regioni, questo ho capito, quindi forse non tra i comuni, però ho capito che riaprono i parchi, forse, chissà se poi in tutte le regioni. Ecco, questa è l'idea di andare uniti in tutta Italia. Poi ci saranno le ordinanze regionali che magari vieteranno alcune cose, come è successo per le librerie. Si riaprono le librerie? No, noi non le riapriamo in alcune regioni. Si riapriranno i parchi, sarà sconsigliato comunque invitare le persone a casa. Vabbè, queste le cose fondamentali, però staremo a vedere. Come si riparte? Oggi mi ha colpito Derrida. Derrida è un grande sociologo, ha 88 anni, intervistato da Repubblica, ha fondato il Censis, anzi dice ogni giorno, anche oggi a 88 anni, vado e mi reco al Censis. E dice serve uno scatto, cioè fa proprio questo paragone. L'Italia è come il dopoguerra. L'Italia che era fatta di straccioni, lo dice lui nel 1945, eppure lo Stato non ci aiutava, lavoravamo duro, lo Stato non poteva aiutare nessuno, al massimo c'era qualche pensione di guerra. Ecco, De Rita critica questo: ormai abbiamo statalizzato la pandemia, ormai aspettiamo il bonus dello Stato, la carità, anche il bonus vacanze vogliamo. Insomma, ormai siamo un paese sovvenzionato ad personam. Invece, dice De Rita, dobbiamo concentrarci e lavorare duro da soli, senza che lo Stato ci assista. Ci vuole fantasia, ci vuole creatività. E allora, cari italiani, voi che creatività potete avere? Certo, lui stesso dice, se uno è un ristoratore deve stare chiuso, c'è poca creatività, mi rendo conto. Ma quando si ripartirà, De Rita dice, non aspettate mamma Stato o papà Stato che vi dà dei soldi. Creatività, ingegno. Noi italiani siamo abili in questo. Fate vobis e ditemi che cosa si può fare come creatività. Un'altra cosa che mi ha incuriosito molto è la lite tra virologi, epidemiologi, come scrive oggi Fabrizio Roncone, una bolgia. Ma anche noi oggi avremo il nostro virologo, eh? So che alle 10:15 verrà a trovare a casa, andrà a trovare Leonardo Manera con i distanziamenti sociali, ma credo che ci sarà un nuovo ingresso alla nostra trasmissione. Anche noi abbiamo il nostro virologo, perché insomma non possiamo mica farne a meno. Allora, cari ascoltatori, poi vabbè, vi voglio far sentire, ce n'è una. Zingaretti, ancora, come era andato da Fazio, ha detto che bisogna semplificare l'Italia e meno burocrazia. Vai Alpino, fallo sentire, meno burocrazia, vai Alpino. Il tema è avere ordine sulle decisioni, sapere chi decide, mi permetto di dire, giusto, anche al governo che sostengo, per cortesia ora chiarezza e velocità, perché l'Italia ha bisogno di chiarezza, velocità e di meno burocrazia. Meno burocrazia. L'appello alla meno burocrazia, cioè... Oh, guarda, ci vorrebbe anche azzerare la fame nel mondo, azzerare la povertà e pace, pace universale. Ecco, pace universale, niente fame nel mondo e niente povertà. Oh, così. Quando ci saranno queste tre condizioni, pace nel mondo, niente fame e niente povertà, ci sarà anche lo stop alla burocrazia in Italia. Arriveremo. I quattro punti fondamentali dell'agenda ONU del 2050. Basta fame nel mondo, basta povertà, sia la pace, basta burocrazia in Italia. Ce la faremo entro il 2050. Ale. Allora, signori, come detto, voglio parlare oggi di scuole paritarie. Sono più di 12.000 istituti, sono quasi 900.000 studenti, quindi le famiglie sono meno di 900.000, perché alcuni mandano più figli alle paritarie. Piccola premessa, lo dico sempre quando si parla di scuole paritarie, utilizziamo i termini giusti. La scuola paritaria è una scuola pubblica. Perché? Perché svolge un servizio pubblico ed è inserita nel Sistema Nazionale di Istruzione, nel Ministero. Quindi è una scuola pubblica, non è la scuola privata, che è un altro settore ancora. Esistono le scuole private, qui si parla di scuole paritarie. E queste scuole hanno lanciato un allarme perché dicono che con questa emergenza molti genitori non possono più pagare le rette, quindi ritireranno magari gli studenti da queste scuole, le manderanno alla scuola pubblica statale, e quindi queste scuole dicono il 30% di noi rischia di chiudere, di fallire. Conosco già gli argomenti contrari che voglio sottoporre alla mia ospite, che sono sostanzialmente: chi ha aderito a questa scelta di mandare la scuola paritaria vuol dire che se lo poteva permettere, vuol dire che ha più soldi, vuol dire che ha fatto una sua libera scelta e quindi ora di questa scelta deve, non si capisce perché debba pagare in qualche modo la collettività. Argomenti che suor Anna Monia Alfieri, che torna con noi, conosce molto bene, perché se li sarà sentiti ripetere varie volte. Suora Alfieri, buongiorno. Grazie. Buongiorno, l'abbiamo invitata già una volta, è una suora molto molto vivace, ha tre lauree, è consulente di vari ministeri, insomma di questo tema si occupa molto. Intanto, l'allarme è concreto o è un allarme per dire ci siamo anche noi, cioè il 30% rischia di chiudere? No, guardi, a questo punto io mi permetto di dire che l'allarme è molto concreto, perché le scuole paritarie hanno chiaramente detto non vogliamo soldi per noi, non vogliamo essere mantenute, ma le scuole paritarie hanno una ragione di esistere, sono quelle che muovono il senso della responsabilità civile, no? Al servizio della nazione. Allora hanno detto chiaramente allo Stato italiano, questi sono i termini della situazione, noi per anni 12.000 scuole paritarie ci siamo indebitati per riuscire a servire la nazione in un pluralismo, garantire la scuola a costi zero per te, con una retta per le famiglie che non copre assolutamente il costo dei docenti, ci siamo indebitati, abbiamo ipotecato gli immobili in tempi di coronavirus, quella retta dai 2.500 ai 4.000 le famiglie non riescono neanche più a pagarla perché sono più povere, più spaventate, occhio che ogni buona organizzazione di fronte a questa situazione il 30% deve consegnare le chiavi, consegnare i libri contabili, sì. 350.000 alunni necessariamente dovranno inserirsi nella scuola statale, ti chiediamo un gesto di responsabilità, il tempo del coronavirus, butta giù gli occhiali dell'ideologia e aiuta i cittadini, perché il dramma no, anche perché, sarà per attenzione, i cittadini. Questo è un punto fondamentale per far capire, perché sennò si parte sempre da steccati ideologici che sono difficili poi da battere. La cifra che ci ha detto Suoranna Monialfieri, cioè 350, se mettiamo il caso 350.000 alunni dovranno da settembre passare alla scuola statale, voi pensate che cosa vuol dire in termini di costi per lo Stato, assunzioni di insegnanti, c'è bisogno. Quindi la scuola paritaria serve a sgravare conti, se mi costi permette, noi i costi li abbiamo fatti e li abbiamo consegnati al Ministero, senza ombra di dubbio, le cifre sono queste. 2,8 miliardi di euro lo Stato italiano dovrà mettere in cassa a settembre per accogliere questi ragazzi. Ma non basta. 2,8 miliardi. Perché questa basta. Cifra da dove viene? Questa cifra da dove viene? Dal fatto che abbiamo indicato la cifra che il Ministero dice, un allievo allo Stato italiano e quindi ai dati OCSE PISA, quindi tutto certificato, costa 89.000 euro dall'infanzia alle superiori. Quindi con calcoli aritmetici e algebrici, che solo gli economisti sanno, quindi chi ha ideologia studi, è stato calcolato il costo dei 350.000 euro, di 350.000 alunni per l'anno scolastico 20 e 21, quindi consegnato, ma peggio, questa cifra che noi avevamo già consegnato una settimana prima, due o tre giorni fa, ci è stata riconfermata, certamente non ne abbiamo parlato, con l'ex ministro Fioramonti, il quale dice su Repubblica, quindi testata libera dall'ideologia, diciamo così, perché l'ideologia non va bene mai da ambo le parti, dice occhio signori che io per riaprire a settembre mi servono 3 miliardi di euro per la scuola statale, quindi vai a far la somma, 3 più 2,8 miliardi di euro fa 5,8 miliardi. Ah, dico più grossa, ieri l'economista al di sopra di ogni dubbio, Leonardo Becchetti, docente della Tor Vergata, è uscito con un articolo dicendo, e quindi è evidente la sua impronta che è tutto tranne di parte, dice occhio che questi 350.000 alunni che si riversano nella scuola statale ti costeranno questa cifra qui. Quindi tutti i conti tornano, ma la cosa più grave La cifra c'è, però io vorrei capire che cosa, perché sa, in questo momento in cui chiedono soldi, io ricevo mail, lei non può capire, da parte di tutti, ieri mi ha scritto un appello accorato, un NCC, cioè un noleggiatore con conducente della regione Sicilia, che dice io lavoravo come tanti di noi da aprile a ottobre a portare i turisti, quest'anno guadagnerò zero. Cioè mi scrivono tante di quei rappresentanti di categorie le più disparate a dire siamo nella disperazione. Uno potrebbe dire perché dobbiamo partire dalle scuole dove vanno i figli dei ricchi, va, le dico il Guardi, classico non è il problema cliché dei figli dei ricchi. Il classico le scuole cliché. Ricche, lei dice dei figli dei ricchi, diciamole quali sono. Sono le scuole che hanno una retta sopra i 5.500, glielo dissi anche l'altra volta, ma quelle non hanno questo problema, sono i figli dei politici, dei giornalisti ricchi e potenti, non nel suo caso perché di quelli delle TV, dico quelli che guadagnano milioni di euro, che continuano ad andare, quelli non hanno il problema, non hanno proprio un problema. Il problema sono quelli delle rette sotto i 5.000 che chiudono e vanno nella scuola statale, non quelli dei ricchi. Ma che cosa succede? La scuola paritaria, proprio perché è una scuola responsabile, non ha detto al governo dammi soldi per me, ha detto al governo occhio che se tu non aiuti la famiglia a pagare sta retta, noi non ce la facciamo più. Quindi bisogna dare dei soldi, o meglio, far sgravare un po' le rette alle famiglie in difficoltà. Se no, questo è quello che chiedete. Non hai soldi per andare nella paritaria, deve venire da te. Ma la cosa più preoccupante che ci deve preoccupare, io faccio un appello proprio da Radio 24 a tutti i cittadini, io sono sinceramente preoccupata, e tutti sanno quanto io sono ottimista, dell'ordine pubblico. Perché questi ragazzini che noi diciamo di raggiungere con la didattica a distanza, abbiamo mezzo milione di studenti della scuola statale che non riusciamo a raggiungere. Abbiamo presi della scuola che dice: se non me li prende il coronavirus i miei ragazzi, se li prende la camorra. Peggio, noi non riusciamo a riaprire le scuole, se non le riapriamo non riparte il paese, le famiglie non riescono a lavorare, e l'Italia, pur guarita, è condannata a una vita di stenti se non riapriamo le scuole. Non possiamo riaprirle, perché col distanziamento sociale e di ultimo gli emendamenti chiesti di tenere 10-15 bambini per classe, ma come fa la scuola statale, che già non ha gli ambienti per tenere i 30 bambini che c'ha per classe, a riaprire a settembre col distanziamento sociale, prendendo questi 300.000? Secondo lei le istituzioni risponderanno? Perché io ho visto appelli, qualche onorevole che vi ha appoggiato, qualche lettera per l'ordine civile. Guardi, noi abbiamo dato al governo, a Conte, all'Azzolina, guardate, io posso anche dirlo, mi permetto di dirlo da Radio 24, detesti la scuola paritaria? Benissimo, sei libero. Pensi che sia la scuola dei preti? Tranquillo, libero, non voglio neanche più stare a controbattere, perché abbiamo fatto anni e anni di studio, ma in questo momento invoco un senso di responsabilità da parte di tutta la classe politica, di destra e di sinistra, da parte di tutti i cittadini, al di là della loro estrazione religiosa, culturale, economica, tutto. Salviamo il paese, perché qui è a rischio l'ordine pubblico se noi non riapriamo le scuole. Avremo in giro dei ragazzi disadattati, incapaci di relazionarsi, degli psicopatici, avremo peggio in giro dei ragazzi dove i ricchi saranno sempre più acculturati e i poveri sempre più ignoranti. Ocse Pisa diceva già che il nostro era un sistema scolastico iniquo, dove il ricco andava avanti e il povero rimaneva sempre più ignorante. Adesso peggio, perché pensate ai ragazzi delle periferie di Milano e che non riescono ad essere raggiunti dalla DAD. Stiamo condannando l'Italia a un paese estremamente classista. Ha detto questa sigla della didattica online, che per carità io vedo, secondo me, e l'ho detto, la maggior parte degli insegnanti si danno l'anima, si dà da fare, interrogazione al pomeriggio, rispondono alle mail, ma è di fatto un disastro, per colpa non loro, ma perché non eravamo pronti, cioè dopo decenni di scuola guardandosi in faccia, passare di colpo da un giorno all'altro alla didattica online è un... Guardi, io l'appello che ho lanciato al governo proprio con i numeri alla mano è: hai 40.000 sedi scolastiche statali, hai 12.000 sedi scolastiche paritarie, utilizzale tutte, 52.000 circa, sono 60.000, metti gli 8 milioni di studenti distribuendoli fra queste strutture e riapri le scuole e rilancia il paese, permetti ai genitori di lavorare e tieni in sicurezza i ragazzi. Io chiedo al governo un'operazione così, che sappiamo che può fare, ha un valore sociale enorme, che non gli costa niente, perché oggi l'allievo gli costa 10.000 euro, benedette 10.000 euro che spende, perché cosa le spende? E quello della paritaria niente. Perché non farlo? Perché non farlo e condannare il paese a non avere futuro, ad avere una classe scolastica, quella di questi anni, ignorante, disadattata, incapace di relazionarsi. E classista, è molto interessante questa idea. Tanto dice: i ricchi potranno sempre permettersi di mandare i fatti loro. Quelli sono quelli della retta di 10-15.000 euro, sono quelli della retta oltre gli 8.000 euro. Suor Alfieri adesso diventa come Michele Serra, il dio denaro, lo sterco del demonio. Ma poi glielo dico sinceramente, il problema è che non credo che questo Stato sia come il vecchio comunismo, ma adesso glielo dico sinceramente, i vecchi comunisti dicevano poco per tutti. Questa è un'altra logica, questa è neanche la logica dello statalismo, perché lo statalismo è più intelligente. Lo statalismo dice: io Stato ti garantisco tutto, elimino qualsiasi discriminazione economica, la base buona c'è per tutti. Questo non è, non siamo in questa realtà qui siamo in una appoggia logica dell'assistenzialismo. Appoggia anche il comunismo, cioè, guardi, suoranna, se siamo sulla radio di Confindustria si penta, la verità, la situazione attuale è la peggiore che abbiamo, perché la situazione attuale è quella dell'assistenzialismo. assistenzialismo, che peggio. Poi è un po' come quello, come quello che ha detto De Rita. Lei allora condivide De Rita, certo, che dice basta aspettare lo Stato, certo, che ci dà anche il bonus vacanze. Ma il bonus De Rita di deve qui, aggiungere però un passaggio. Questo stato del reddito di cittadinanza, dell'assistenzialismo, cioè ti tengo legato a me con una corda lunga per arrivare alla ciotola ma non per uscire, non ha mosso le libertà, ha tarpato le ali della libertà e quindi della responsabilità. Per fare quello che dice Rita, la gente deve essere libera e quindi responsabile. Cittadina propositiva, vede che la gente non propone più niente, perché dice tanto... Ma adesso siamo blindati a casa, che dobbiamo proporre? Tra poco lentamente, lei l'ha segnato il 4 maggio sul calendario? 4 maggio? Sì, certo. Però guardi, 4 Radio maggio, 24 ha una potenza di raggiungere delle persone. Quando io ho detto che intervenivo a Radio 24, e assicuro, io ricevo centinaia di messaggi al mondo, qui ascoltano milioni di cittadini, io a questi milioni di cittadini dico... chiediamo al governo un gesto di responsabilità, ci deve spiegare perché non fa ripartire le scuole con queste operazioni economiche, e chiedo appello anche agli ideologici, perché per i loro figli, perché altrimenti, vi dico la verità, a che serve? La dico grossa. Sì. Lei ha nominato la Seconda Guerra Mondiale, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano i mariti che al fronte perdevano la vita per salvarci, le donne che erano a casa a tenere i figli che avrebbero risollevato la nazione. La scuola ha rilanciato il paese Italia. Metafora per metafora, oggi abbiamo i medici al fronte che perdono la vita e noi che siamo a casa con i nostri figli. Benissimo. È un po' così. Se non riparte la scuola, abbiamo condannato l'Italia a guarire, ma per vivere una vita di senti. A questo io prezzo questo gliela messaggio... dico grossa, io non voglio guarire. Sì, non voglio guarire. Vabbè, io su questo la fermo e la ringrazio. Sono Anna Monia Alfieri. Quando poi dopo avremo una risposta del governo ci risentiremo e capiremo a settembre come riparte. Attenzione che quando gli ascoltatori dicono la scuola paritaria salverà l'ordine pubblico, ascoltate bene le parole. Sono Anna Monia Alfieri, ha detto la scuola in generale è un baluardo contro le derive dell'ordine pubblico ed è assolutamente così. Dopo la pubblicità invece avremo ospite, oltre al nostro vestaglione a Manera che ci raggiungerà insieme a lui, Massimo Fini, mente libera che io adoro, anche se scrive delle cose ogni tanto con le quali non sono d'accordo, ma oggi si è occupato nel suo blog, ha scritto sugli anziani, lui si sente anziano nel senso che dal punto di vista dell'età anagrafica lo è, ma dice basta questa discriminazione contro gli anziani, non se ne può più, adesso forse si dirà che dopo il 4 maggio gli anziani dovranno stare a casa, certo sarà un consiglio, non potrà essere un obbligo perché altrimenti è un diritto costituzionale violato, ma verrà consigliato agli anziani di stare in casa. E allora oggi Massimo Gramellini scrive in prima pagina del Corriere proprio con immagina le brigate anziani combattenti, le BAC che aveva mantenuto, no? Per cui c'è il divieto di uscire di casa solo per chi avesse oltrepassato i 70 anni. Immaginate allora i 71enni, i più avvelenati, essendosi visti affibbiare la patente di vecchi. Ma un po' tutti sembrano sconvolti dalla prospettiva di trascorrere l'estate all'ombra delle tapparelle, ingozzarsi di repliche televisive, formaggini scaduti. C'era il principio d'uguaglianza per cui un anziano vanta gli stessi diritti di salire sull'autobus di un borseggiatore, ma soprattutto di dignità. Per tutta la vita gli anziani si erano sentiti dire che bisognava dare fiducia ai bambini trattandoli da adulti, e ora il governo trattava loro da bambini. Ma le BAC, le brigate anziani combattenti, sbirciarono dallo spioncino via libera. Erano pacifiste anche per via dei reumatismi, ma inflessibili su un punto: gli italiani non saranno scandinavi, però sono meno indisciplinati di quanto essi stessi si considerino. E se fossero circondati da un po' di fiducia, sarebbero perfino in grado di uscire di casa senza starnutirsi addosso l'uno all'altro a qualsiasi età. Ecco, cari anziani, che succederà di voi il 4 maggio? Purtroppo di molti di voi già abbiamo letto sui giornali cosa è successo con i tanti decessi e tante morti nelle residenze sanitarie per anziani, ma non solo. Ma che succederà? Massimo Fini ha detto ormai gli anziani sono gli ebrei del 2000, costretti ad andare in giro con la stella gialla per essere additati a stare a casa. Dopo la pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Luca Cremonese non lo saluta mai nessuno. Grande Luca, bolscevico! Caro Milan, non me ne frega un cazzo, non possono pagare la scuola. C'è quella statale, ci penserà lo Stato. Tutto il resto sono palle. Sì, meno burocrazia, la pace nel mondo, solidarietà. Già che ci siamo, mettiamo dentro anche l'abolizione delle province, dai, dai. L'ascoltatore che dice chi se ne frega se non possono pagare le rette, va bene, ma infatti chi se ne frega se abbiamo stato 2,8 miliardi di euro da immettere nella scuola pubblica statale per far fronte a quelli che passeranno, ok, va bene, poi se bisogna mettere una tassa non si lamenti l'ascoltatore. Leonardona Manera, eccolo. Buongiorno. Qua, dico Leonardona perché fa Manera e quindi Leonardona, non perché tu abbia cambiato sesso, come stai? Ma sto bene, ma dicevo che la fase 2 è il simbolo della fase 2, proprio il ritorno alle polemiche, quindi è un buon segnale, lo dicevo anche ieri, questi messaggi anche un po' polemici vuol dire che stiamo tornando come sempre, quindi bene, bene, benissimo. C'è una grande pagina anche sulle polemiche ormai tra virologi e epidemiologi e io ho detto che oggi avremo un virologo che credo verrà a trovarti alle 10:15, oggi verrà, no? Perché ieri poi è saltato l'appuntamento. Credo di sì, oggi salvo imprevisti dovrebbe arrivare. Anche noi vogliamo avere il nostro virologo. Però a proposito di polemiche, allora io ho preannunciato la presenza di Massimo Fini, eccolo qua, Massimo Fini, come stai Massimo? Ciao Alessandro, vedo che sei sopravvissuto al coronavirus. Sì, io sono a casa, perché si trasmette da casa, Leonardo Manera è a casa, tu sei a casa, solo che tu hai scritto che gli anziani sono gli ebrei del 2000, no? Costretti sì, ormai... Sì, questa ventilata cosa, per cui... altri potrebbero uscire almeno mentre invece l'anziano deve restare a casa, è una cosa non solo anticostituzionale, ormai della Costituzione aveva fatto stracci, ma comunque lede uno dei principi fondanti, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, anche per condizioni personali, ma è totalmente illogica, perché è vero che un anziano più facile che muoia per coronavirus, ma non è affatto vero che a parità di condizioni infetti più degli altri, quindi non si vede proprio perché non deve uscire. Se vuole infettare è proprio l'idea di proteggerlo, no? L'idea di certo, però tu dici così, mi considerano un po' stupido se mi dicono, mi danno in pratica dello stupido trattandomi un po'... Voglio dire, a differenza che altri tempi, l'individuo non appartiene né a Dio né alla società, appartiene solo a se stesso. Nella misura in cui non nuoce agli altri, e questo è il caso che stiamo esaminando, è libero di fare ciò che vuole. Sì. Capisci? Se io voglio rischiare uscendo perché sono anziano, e gli altri escono, voglio dire, ripeto, a parità di condizioni, io non sono più infetto di nessun altro. Il buon Leonardo Manera ci disse una volta di recente, Leonardo, che c'era molti anziani dicono vabbè, ma tanto io sono vecchio, anziano, quindi se devo morire di questo o di altro. Alcuni, e quindi magari non preferiscono... hanno dei comportamenti adeguati, ecco, si avvicinano alle persone. No, ma per carità, persone, ma io invece li capisco, perché alcuni dicono piuttosto che morire di solitudine, preferisco morire uscendo di coronavirus. Io penso che sia anche alla fine comprensibile. Ma posso dire? Sì, vai. Beh, intanto Manera ha toccato un punto importante. La solitudine, secondo le ricerche scientifiche, uccide più del fumo. Ma poi, come forse avete avuto modo di vedere, in giro, se c'è qualcuno, ci sono molto più anziani che giovani. Ed è ovvio che sia così. Perché queste potrebbero essere le ultime mesi, estati della nostra vita e quindi almeno ce le giochiamo, che ci importa del coronavirus. Ripeto, sì, questo senza danneggiare perché nessun perché ci devono altro. Blindare. Sai che però oggi leggevo sui giornali che appunto il punto della costituzionalità molto probabilmente non verrà istituito un obbligo, ma un consiglio di restare a casa, proprio perché sennò sarebbe anticostituzionale. Beh, un consiglio è una cosa, nel senso che mi pare ciò che hanno fatto in Svezia, di fare raccomandazioni consigli. Allora un'altra cosa. Dici, guarda, non uscire perché tu... sei più esposto, nel senso che gli anziani muoiono più degli altri. Un'altra cosa. Detto questo, questo panico generale per questa abietta paura della morte è abbastanza, se non fosse tragico sarebbe ridicolo, perché ognuno di noi ha lo 0,025 probabilità di morire per coronavirus. Ora, è pochissimo, gli incidenti stradali sono infinitamente di più. È vero che l'epidemia è una cosa diversa perché può aumentare e tutto quanto, ma voglio dire, le probabilità sono queste. Sì, poi c'è questo tema della paura della morte. Ieri ho discusso con molti ascoltatori, mi ha scritto mail, perché quando ho detto perché in Danimarca, in Svezia, in Germania riaprono le scuole, tornano a vivere, e molti mi hanno detto ma dai, ma lì c'è il calvinismo, non c'è il cattolicesimo, non c'è questo terrore della morte, il rapporto con la morte viene vissuto in maniera diversa rispetto a noi, così anche negli Stati Uniti, per esempio, per cui sono, non so se un po' più fatalisti, non vorrei essere grossolano nell'analisi, però hanno un approccio un po' più tranquillo verso gli eventi naturali della vita, no? Noi invece forse no, Massimo. Sono d'accordo, anche se voglio dire, i cattolici dovrebbero essere gli ultimi a aver paura della morte, non vanno in cielo. Sì. In teoria, ormai sì. È un non credente come sono io che dovrei aver paura, ma questa, no, comunque ripeto, è un fatto culturale, tu ne hai accennato benissimo, e purtroppo da noi c'è questa, io la chiamo abietta paura della morte, ma porco cane, nella seconda guerra mondiale, che è diciamo venuta montando nei decenni. Perché nella seconda guerra mondiale sono morte 68 milioni di persone, insomma. Qui a Milano c'erano bombardamenti e tutto quanto, e non è che la gente fosse così terrorizzata. È vero che la cosa è diversa, perché potevi sapere dove era il nemico, no? Qui questo nemico è molto subdolo, può stare una buccia di banana, può stare nell'aria. Sì, poi quelli erano anni in cui la guerra mondiale era prevedibile a un certo punto, qui di colpo le nostre vite sono, tra virgolette, certo, normali, sì. Però è arrivato non richiesto. Io sono un medico, non sono un virologo, e quindi prendete le cose che dico per quelle che valgono, ma sì. Io sono anche convinto che... questa immunizzazione di tutto attraverso il vaccino, non dico per la poliomielite, il vaiolo, queste cose cui è stata essenziale, ma anche per il morbillo, per la varicella, abbia finito per indebolire le nostre naturali difese immunitarie. Per cui basta che si presenti questa, che è una influenza un po' più aggressiva, che il nostro sistema immunitario, che non c'è più, non è più abituato a respingere. Però. Hanno salvato milioni di vite, però, cioè i vaccini. Sì, no, ma io no, ti dico però dice, ci hanno indebolito lentamente. Sì, ma io ti dico, sono assolutamente d'accordo sulle diciamo patologie tipo poliomielite, tipo vaiolo, insomma, è stato fondamentale il vaccino, ma poi a estenderlo a tutto finisce che il nostro corpo non ha più delle naturali difese immunitarie. Sì. Leo, tu che hai da chiedere? Ho qui un libro nella mia libreria, di Massimo Fini, si intitola Ragazzo, e nella quarta di copertina c'è scritto: l'estremo paradosso dei vecchi è che desiderano morire ma vogliono vivere. E questo spiega forse perché poi tante persone anziane hanno voglia proprio di uscire di casa, come dicevamo prima. Massimo, pronto? Ci sei? Sì, eccomi, ci sei. Sì, sono contento che sia stata, che sia, sai, Ragazzo è uno dei libri più, Storia di una vecchiaia, che parla appunto in modo molto crudo della vecchiaia, è forse uno dei miei libri migliori, perché i suoi passi sono citati molto spesso. Mm. Senti Massimo, tu guardi sempre all'America, sei critico, molto guardo critico. Guardo l'America nel senso che vorrei che sparisse la faccia della terra, sì. No, ecco, vorrei che, sentite, vorrei che sparisse, dai! Dai, ma non puoi dire così. Vabbè, insomma, puoi dire quello che vuoi in realtà. Vorrei, però questo ti pone già in una precondizione per cui molti adesso non ascolteranno il ragionamento che vuoi dire. Se no, dici, va bene, vorrei ma che sparisse la terra. Un'iperbole, vabbè. Naturalmente. Sì, certo, ma certo, lo so che assolutamente non ti prendo la lettera, anche se un pochino, secondo me, lo vorresti davvero. Però ti chiedo cosa ne pensi, visto che si dice è la patria delle estreme libertà, uso apposta la aggettivo estremo, sì. Vicino alla libertà, ci sono coloro che fanno le marce per riacquisire la libertà, fateci andare in giro, ci sono gli infermieri che si mettono davanti alle macchine impedendo ai manifestanti di manifestare. Tu da che parte stai? Verso dalla parte di coloro che dicono libertà, libertà estrema oppure no? No, come in tutte le cose ci vuole un equilibrio. Finché diciamo i provvedimenti del nostro governo sono ragionevoli, eccetera, bisogna attenersi. Certo che se per esempio arrivasse questa discriminazione fra giovani e anziani, la cosa si fa, cambia, i termini della questione cambiano completamente, perché allora non saremo più in una democrazia, saremo in una aperta tirannia. Ripeto, ci sono alcuni provvedimenti che non si possono prendere. Tu puoi limitare le libertà individuali per tutti, non puoi fare discriminazioni fra gli uni e gli altri, perché questo è razzismo. Sì, sì. Appunto, come ho scritto, si diventa gli ebrei del 2000, insomma. Vabbè, ma questo lo vedremo, va bene. Sì, io comunque vuoi cancellare l'America? Che dobbiamo fare? Cosa? Vuoi cancellare l'America dalla no, faccia voglio della dire, terra? Vorrei che smettesse di fare guerre ingiuste, inutili, di cui noi europei siamo poi le vittime, perché la guerra all'Iraq, la guerra alla Libia. Sì, poi tutti si riversano sulle nostre coste, no? Certo, lui dice certo. First America, va bene, però permette anche che ci sia First Italia e soprattutto First Europa. Va bene, grande Massimo Fini, ti salutiamo, ti abbracciamo, vedremo il 4 maggio, l'hai segnato anche tu sul calendario, succederà qualcosa, non si capisce bene cosa, però qualcosa succederà il 4 maggio. Vedremo, come dice una mia amica, bella amica di Verona. Vedremo. Ah no, ecco, c'è questa curiosità. Ho letto in un'intervista, Leonardo, che Massimo Fini ha un segreto per mantenere una routine quotidiana, per mantenersi un po' vivo e vivace, un segreto che però non ha potuto dire alla giornalista che lo intervistava, perché ha detto non si può riportare. Mi sono sbizzarrito tra varie teorie, temo che siamo più in ambito Zanzara a questo punto, come trasmissione, non lo so, non lo so, ci vuoi riferire esattamente? No, cari miei. Almeno l'ambito io l'ho capito, secondo no, me è sessuale, sessuale, no? Ovviamente. Ovvio, l'ambito tieni è sessuale. Tieni presente che per i vecchi l'attività sessuale è molto importante, per questo è demenziale un altro provvedimento preso, per cui se un anziano avvicina una prostituta, premetto, io non sono mai andato con prostitute, ma per fatti miei, viene multato e cacciato. Anche un giovane adesso non si può avvicinare a nessuno. Appunto, hai ragione. Comunque, sai, un giovane la possibilità di soddisfare le sue voglie ce l'ha, se no ce l'ha. Ecco, un anziano è molto più difficile. So. Vabbè, però, Massimo, rimaniamo col mistero. Tu sei soddisfatto, Leonardo, della risposta, o vorresti qualche dettaglio in più? Sono soddisfatto a metà. Ecco, diciamo così. A metà. Volevo qualche indicazione più specifica per aiutare anche me stesso. No. Ecco, esatto. Era per un'azione di mutuo soccorso, Massimo, più che altro. Non è che te lo chiedevamo per quello, questa cosa. Va bene, rimaniamo nel mistero e ringraziamo Massimo. Massimo Fini, scrittore, intellettuale, giornalista, insomma i suoi libri sono decine e decine, quindi li trovate e potete sbizzarrirvi. Caro Leonardo, hai capito? Vuole cancellare gli Stati Uniti dalla faccia della terra. E Massimo Fini è così, prendere o lasciare, non è che si può andare con le mezze misure. Ma io ho diversi libri suoi, è uno dei miei autori preferiti. Anche Il certo, Ribelle è un altro libro che consiglio molto di Massimo Fini. Ma perché anche io ho diversi libri, perché è una persona che vuol dire che non ha peli sulla lingua, dice la sua, poi molto spesso appunto si può essere anche in disaccordo, ma è una mente libera e una penna libera, ecco, una delle rarissime menti libere in Italia. Hai visto che siamo tornati a consigliare i libri al posto di Alessandra Tedesco? Hai visto? Traffico. Vogliamo esautorare Alessandra Tedesco. Infatti adesso dopo la chiamiamo, Traffico. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Uno, nessuno, 100 Milan. Caro Milan, non me ne frega un cazzo, non possono pagare la scuola. C'è quella statale, ci penserà lo Stato. Tutto il resto sono palle. Sì, meno burocrazia, la pace nel mondo, solidarietà. Già che ci siamo, mettiamo dentro anche l'abolizione delle province. Dai, dai. Dai, dai, le province. Dai, 800240024. Sì, infatti, l'ho rimarcato, no, sono insomma, quelli di prima. Magari ho avuto io. Per ribadire i concetti. No, non sei nel giorno della marmotta, che tutti i giorni ti svegli e rivivi le stesse cose. Va bene, cosa c'hai da lamentarti ancora? Non ho niente da lamentarmi oggi, niente. Guarda, sono qui tranquillo, no. A posto. È incredibile. Senti, vogliamo però, va bene, dimmi. Prima del tuo pezzo, abbiamo solo 2 minuti, vogliamo chiamare un attimo Alessandra Tedesco. Alessandra Tedesco, la nostra Alessandra Tedesco. Com'è andata l'ultima puntata del Cacciatore di Libri? E mi hanno chiesto tutti di Manera, hanno chiesto che io venissi sostituita da Manera, quindi direi che la mia carriera è finita. No, perché oggi stava consigliando altri libri, Leonardo, quindi no, l'ultima vuol dire quella finale, volevamo sapere, l'ultima finale, cioè com'è andata, cioè hai salutato il pubblico per sempre? Ho salutato, ho ceduto il passo a Leonardo Manera, ho detto da sabato prossimo sarete in compagnia di Leonardo Manera. Dalle 9:30 bene, ti ringrazio. Alle 10. Bene. Ma mi viene un bel regalo di compleanno. Mi viene un altro libro da consigliare dal tuo sì. Stipendio, Alessandra? Ovvio. Cioè, posso cumulare i due stipendi? Quello che certo, sono 100.000. Se l'Inps è d'accordo, oh. Sì. Oh, finalmente una buona notizia. Leonardo, hai un altro libro da consigliare? Così? Sì, perché non per ora consigliamo i libri di Massimo Fini. Vediamo, non so vediamo. Se conoscerà. Questo è Spalding Gray, Sesso e morte fino a 14 anni, Garzanti. Non so se lo conosci, va però bene. Alessandra. Va bene, no, ovviamente non l'ho mai sempre, letto. Mi manca. Sempre con la modalità alla Manera, cioè lui dà un titolo e poi siete voi, cari ascoltatori, a doverlo leggere e dire di che cosa esatto. Parla, perché lui li ha in casa. A caso, esattamente. A caso. Sì, certo. Certo, se volete, cari ascoltatori, così. Dopo che lo avete letto, anche contattare l'autore e fare due chiacchiere per capire, è una nuova modalità di presentazione di libri. Cioè, voi, lui dà il titolo. Potresti pensarci, Ted, tu dai il titolo io non ho più il programma, ormai è di Manera, quindi, come dire, ormai vero. Tutto è in mano sua. Porca miseria, effettivamente. Vabbè, dai, allora ti rimettiamo in carica. Dai, puoi continuare con questa nuova modalità. Tu dai il titolo, grazie, la gente legge. Grata.

Ma si sa che i giornalisti danno sempre informazioni sbagliate. Numeri a caso. Dai, andiamo al giornale radio, poi avremo ospite il presidente dell'Accademia della Crusca per questo linguaggio strano che si è impossessato di noi, droplet, tableau, com'è che è, plateau, lockdown. Mamma mia ragazzi, non se ne può più. E poi viene a trovarci appunto un virologo, a casa di Manera verrà un virologo, un nuovo personaggio, bene. Penso. Così mi hai detto. Giornale non lo raggio. So, vediamo. Mi ha detto che viene salvo imprevisti. Va bene. Uno, nessuno, 100 Milan. In Serbia, dottor Milan, chi ha più di 65 anni prende 1000 euro di multa se esce di casa. Alino, io sono anziano ma sto ancora lavorando perché non sono ancora in pensione. Se vogliono tenermi a casa mi mandino in pensione, io sto a casa, non c'è nessun problema per me. Allora, la terza pensavo mezz'ora che... di Uno Nessuno 100 Milan. Leonardo, che dici? No, pensavo che forse il motivo per cui si tende a tenere gli anziani a casa è per non intasare nuovamente le terapie intensive qualora ce ne fosse bisogno. Insomma. Certo, il tema è quello, se si ammalano. È una grossa limitazione, chiaro, sì. Certo, però. Allora, oggi scrive Beppe Severgnini in prima pagina del Corriere della Sera. Venerdì 3 aprile, giorno dell'assedio al sito dell'INPS, avviene una violazione dei dati. La stessa INPS informa a un certo punto gli utenti di avere prontamente notificato il data breach al garante per la protezione dei dati personali. Inizia così l'articolo di Beppe Severgnini, il data breach. Chissà il nostro presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, quando ha letto quel data breach, cosa ha pensato? Buongiorno presidente, no, buongiorno. Grazie di essere qui. Siamo stati cattivi con l'INPS. Il data breach, sì, perché il data breach? Che poi è la violazione dei dati, certo. Insomma, la breccia. Diciamo, era da un po' di tempo che vedevamo tutta questa gragnuola di parole inglesi che stava entrando col coronavirus, Severgnini ne parla in questo divertente intervento sì. Che lei ha citato. E si capisce che quando addirittura nel portale dell'INPS è visto comparire questo anglismo non trasparente, perché certamente la maggior parte degli italiani non potevano sapere che significa violazione dei dati o violazione dei dati personali, e abbiamo pensato che insomma la misura era colma. Si potrebbe continuare. È vero che però abbiamo anche scritto che l'INPS doverosamente ha messo questo avviso, seppure usando una parola appunto non tanto trasparente, perché è una norma europea, cioè quando c'è una violazione dei dati e si deve avvisare l'utenza che è avvenuta questa violazione. Ecco, perfetto, violazione dei dati, era perfetto, violazione dei dati. Sì, tra l'altro la stessa autorità che verifica che garantisce i dati personali ci ha detto che loro non userebbero mai data breach se non conversazioni tra detti ai lavori. Il rapporto col pubblico è l'autorità che si occupa della violazione della protezione. No, ma io un giorno ho scritto questo su Facebook, non so se mi sta più sulle scatole ormai la parola plateau o la parola lockdown, cioè tra francese e inglese, devo dire più l'inglese droplet, lockdown con cosa si potrebbe tradurre con blocco semplicemente. No, l'interessante è questo, voglio dire, ormai è trasparente, almeno quello tutti hanno capito che cosa vuol dire. È curioso che all'estero, in paesi di lingua romanza, cioè la Francia e la Spagna, basta prendere i giornali, no? Tutti i giorni, l'hanno chiamata confinement e confinamento, cioè corrisponde all'italiano confinamento, che è un po' meglio di confino, perché il confino sarebbe pensato. E sono andati d'accordo questi due paesi di lingua romanza, cioè lì il lockdown proprio non esiste, non è mai usato, non ha nemmeno fatto la sua comparsa il termine lockdown. Si sa, i francesi in questo sono molto nazionalisti. Ma non è venuto da un'imposizione dall'alto, è venuto spontaneo anche in Spagna, e loro stanno già parlando di deconfinamento e deconfinement. Mentre io ho visto il foglio del Ministero dell'Università l'altro giorno, il post-lockdown. Post-lockdown. Post-lockdown, che è bello perché è un incrocio tra latino e inglese. Sì, sì, sì. Per esempio, sì, anche questo droplet, no? Certo, certo. C'è il timore del droplet, no? Cioè, che poi sono le goccioline. Cioè, beh, non si capisce perché goccioline lo capirebbero tutti. E invece dobbiamo mettere droplet. Beh, è vero che la lingua internazionale della scienza è in inglese, quindi se si incontrano 100 virologi parlano di droplet e tutti si capiscono. Così come certo, virologi naturalmente dicono anche virus, e come Di Maio che all'inizio aveva detto il coronavirus e tutti gli davano addosso, ma un po' aveva ragione. In America lo chiamano così, però sbagliano anche gli americani in questo caso, nel senso che se la parola è latina andrebbe pronunciata nel modo originario. Sì, però in America dicono virus, è inutile. Non ci hanno questo scrupolo, evidentemente. Certo. Sì, sì. No, più che altro è molto curioso, avevo visto i giornali americani che intitolavano lockdown all'italiana, e la parola all'italiana scritta in italiano. Perché tra l'altro il termine è vero che è americano, non è inglese, perché è nato negli USA per le rivolte carcerarie negli anni '80, è usato così, quindi era quando rivolta carceraria, blocco delle celle, i carcerati non... Quindi lockdown. È nato nel linguaggio giuridico carcerario, poi si è trasferito nel linguaggio delle università, cioè delle volte lì succedono delle tragedie incredibili, università, rivolte universitarie, sparatorie, no? Matti, e allora impongono lockdown all'università. Poi nel 2002, la SARS del 2002, vero se ricordo bene, i giornali americani l'hanno usato nell'ambito sanitario per indicare quello che accadeva in Oriente, quindi dicevano lockdown di Singapore, no? E quindi lì si è trasferito il termine giuridico, carcerario e scolastico nel settore sanitario, e poi è riemerso alla grande con questa nuova epidemia Covid-19. Sì. C'è da dire che oggi Severgnini si concentra anche su altre parole, nel senso, per esempio, dispenser, food delivery e anche smart working. Per esempio, smart working ormai lo utilizziamo tutti. Lo smart working, il telelavoro è brutto, effettivamente. Il telelavoro, no, è una cosa diversa. Lì c'è la grande sconfitta, è la sconfitta del gruppo Incipit, perché un anno fa, credo più di un anno fa, avevamo fatto un comunicato in cui avevamo cercato di fare sostituire a smart working lavoro agile. Un po' di fortuna l'ha avuto, alcuni lo usano lavoro agile. Lavoro agile lavoro è diverso agile, da telelavoro, sì. Perché per esempio se io sono in un call center, faccio il telelavoro, ma ho un orario e vado al call center, non sono a casa mia. Sì, no? Sì. Questo è il telelavoro. Invece il lavoro agile, sono a casa mia, non mi misurano l'orario, in teoria dovrei rispondere soltanto sul lavoro compiuto, quindi ho svolto, ma nell'orario che mi è più comodo, tutte queste pratiche. Questo è il lavoro agile. Quindi molto diverso, più libero. È diverso, è diverso. Giustamente un ascoltatore ci fa notare che ha sentito una giornalista dire il lockdown, neanche lockdown. Ma è ovvio, poi se uno utilizza dei termini inglesi, poi dopo c'è quello che li sa pronunciare bene, il lockdown. Fa più figo. Esatto, fa un po' più figo, Presidente. Lei non capisce che... E quando si entra in conferenza che si mette la giacca ma sotto si mutande, questo è il lockdown. È vero, ecco, esatto. Come il nostro Leonardo Manera che sta a casa in vestaglia, lui per esempio sta in vestaglia. Però io lo dico, io lo ammetto. C'è anche chi ha sentito dire il social distancing, ragazzi, vabbè. Presidente, noi la ringraziamo. Ho una domanda per il Presidente. Professore, lei veramente, glielo chiedo sinceramente, come fa a sapere tutto? Questa è una cosa che mi sono sempre chiesto. Prima di tutto io non so tutto, anzi so pochissimo, in me, e più si cerca di sapere più ci si accorge di quanto non si sa, quindi altro che sapere tutto. E del resto non soltanto nel campo linguistico, virologi che si scannano in questi giorni. C'è un bellissimo giorno di Gramellini oggi, no? Sì. Quindi in realtà la scienza sa di non sapere, insomma, questa è importante. Quindi non è vero, non è vero. Hai illuso la domanda come i politici più scafati. No, poi non sono solo, dietro c'è l'Accademia, ci sono i colleghi, quindi anzi un modo di sapere più cose è proprio appartenere a una struttura, quindi essere informati anche da altri, discutere. Vabbè, è un po' studiare anche, certo. Professore. Ha un'equipe, un po' studiare. Diciamo, ha un'equipe. Ha un'equipe. Consulenza della Croce. Noi la ringraziamo, Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, sempre molto gentile e disponibile con noi, e grazie di essere qui. Adesso, caro Leonardo, noi andiamo al traffico. Si è capito se è arrivato? Sì, dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare, sta strada, salendo dall'ascensore. Sì. L'hai visto per strada, mamma mia, si distingue addirittura così. Un virologo da noi, perché insomma ce l'hanno tutti, il virologo di fiducia, anche noi ne abbiamo uno. Tra poco dopo il traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1 nessuno 100 Milan. Allora, siamo qui alle 10:18 minuti e credo, se ho capito bene, perché era annunciato questa mattina, che il professor Piero Picchio, virologo, sia arrivato a casa di Leonardo Manera. Non so se il professor Picchio. Buongiorno, sono il professor Piero Picchio, virologo. Buongiorno. Buongiorno, ecco, io penso che per prima cosa lei, dottor Milan, dovrebbe ringraziarmi della mia presenza. Mia presenza. Ma guardi, anche in modo più esplicito, perché lei sa che in questo momento noi la ringrazio molto nella sua presenza. Siamo le star del momento, quindi dovrebbe ringraziarmi di essere presente alla sua trasmissione. Ecco, sono onorato di averla qui in questa trasmissione, professor Picchio. Qualcosa in più, davvero. Dica qualcosa in più. Non ho dormito questa notte nell'attesa del suo arrivo. Grazie, allora, professore. Lei sa che noi virologi in questo momento siamo gli unici che possiamo dare risposte chiare riguardo al coronavirus. Quindi, prima di dare queste risposte chiare agli ignoranti all'ascolto, vorrei che tutti a casa, agli ignoranti in ascolto... L'ha detto un po' con disprezzo. Ma naturalmente, probabilmente quasi tutti quelli all'ascolto non sanno nemmeno cos'è il citoplasma. Non sanno cos'è il citoplasma. Io non lo so, per esempio. Bravo. Nessuno di voi sa cos'è il citoplasma, io lo so perché ho studiato, ecco, io lo so. Lo sa, vabbè, ce lo spiega anche a allora, noi magari. No, vado a studiare, io vorrei che gli ascoltatori a casa ripetessero lode a te o virologo, lode a te o virologo, un po' troppo, lode a te o virologo. Ho studiato, sono intelligente e so cos'è il citoplasma e voi no. Cicca boom, sì, vabbè. Allora, non sapete nemmeno cos'è una catena di RNA. Ignoranti. Io lo so. Vabbè. Allora, se volete posso rispondere alla domanda di qualche ignorante. Sì, c'è un ascoltatore, infatti Carlo da Torino, sì, e chi chiede questa domanda, sì. Professor Picchio, col caldo il virus sparirà? Questo ce lo chiediamo un po' tutti. Allora rispondiamo all'ignorante Carlo. Adesso Carlo ha fatto una domanda. Ignorante. Cos'è il citoplasma? Non lo sai, Carlo? Io lo so. Allora, caro Carlo ignorante, io ti rispondo chiaramente che col caldo, con l'estate, il virus si potrebbe fermare, ma potrebbe anche andare avanti. Perciò l'importante è stare a casa, stare a casa, non muoversi, avete capito, ignoranti all'ascolto? Potrebbe fermarsi o anche non fermarsi il virus col caldo. Cioè, potrebbe che state sì. State a casa, state sì a casa, no. State sì, a casa. Questo l'abbiamo voi capito, non ci vuole un virologo. Nemmeno come è fatta la membrana cellulare, non lo sapete? Vabbè. O lo sapete? Allora, non lo sapete? Beh, no, non lo la sappiamo. Membrana cellulare. Lei ha studiato. Professor Picchio, però guardi che arriva una un'altra domanda da Mariella. Chiediamo. Da Milano. Chiede Mariella, qual è la distanza giusta da mantenere dagli altri per non rischiare? La distanza giusta. Allora rispondiamo all'ignorante Mariella. Da, ancora. Ignorante. Cosa hai fatto? Di cosa ti occupi? Di cucinare le pizze? Non lo so. Magari invece è una manager. Le pizze. Vai a studiare su qualche libro. Ecco, invece di sì, beh, però le ha fatto pizze. Una domanda, sarebbe Mariella. Cortese rispondere. Vabbè. Cara Mariella ignorante, io ti rispondo chiaramente che la distanza per evitare il virus da un'altra persona può andare sì da un metro a sì un chilometro, ah, a un chilometro. Come certo, un chilometro? Stai a un metro, ma naturalmente. Ma rida dalla sua ignoranza, bravo, rida no, dalla sua scusi ignoranza. Vado a vedere una partita di calcio e pizze. Allora, certo, se stai a un metro da una persona infetta hai più possibilità di ammalarti, ma sì, potresti ammalarti anche stando a un chilometro, se l'aria e le polveri sottili trasportassero il virus, magari una particella di polvere sottile potrebbe trasportare il virus fino a te che stai a un chilometro, quindi la risposta chiara che do chiara è state a casa, a casa state bene, a casa, casa. Guardi, allora, professor Picchio, arriva una domanda, secondo me, di Antonio da Roma, sì, che è perfetta e calata. Chiede Antonio, stando a casa, sono sicuro sì di non infettarmi? E beh, a sto punto... Allora, caro ignorante, ancora. Antonio... Sì, sì, si chiama io Antonio, ti rispondo, non si chiama ignorante. Sì, Antonio ignorante, ti rispondo chiaramente che dipende... Come dipende, dipende perché, certo, naturalmente, se tu stai a casa, ordini la spesa a domicilio e tra le confezioni che ti portano c'è una confezione contaminata, potresti prendere il virus anche stando a casa. Perciò io ti rispondo chiaramente che l'unica soluzione, se vogliamo evitare ogni rischio, è stare a casa, ma senza mangiare. Senza no, mangiare. Ma in fondo un ma po' come di digiuno per qualche settimana, qualche mese non ha mai fatto male a nessuno, perciò state a casa e non mangiate per qualche giorno, qualche settimana e un vedrete che tra qualche questo mese, qualche anno, qualche decennio forse la vita forse tornerà come prima, siete contenti? Professor Picchio, siamo onorati ma contenti delle risposte non saprei dire, ecco, certo, onorati la ringraziamo, lei, non... lei insegna sì dove? Lode a una docenza. Te, virologo. Lode a te o virologo. Lode a te o virologo. Quindi voi state a casa, non sì mangiate, io invece vi devo lasciare in questo momento perché sì devo uscire, perché molte come televisioni uscire mi aspettano, certo, devo uscire perché... Sono ambito, sono ricercato da molte televisioni per dare le mie risposte chiare, chiare. Chiare, chiarissime. Professor Picchio, la ringraziamo quando vuole venire sì a ritrovarci. Mi ringrazio in modo più intenso e più evidente, grazie. Sono veramente prostrato ai suoi piedi, inginocchiato in questo benissimo momento. Dispiace che lei non mi possa vedere, però saluto è così. Saluto anche tutti gli ignoranti all'ascolto. Va bene, la ringrazio. Grazie, grazie. Professor Picchio, grazie. Andiamo da Adriano da Verona. Buongiorno, Adriano. Buongiorno, buongiorno, eccoci, complimenti come sempre per la trasmissione. Dice. Grazie. Sentivo prima un elenco di cose da abolire e io suggerivo, visto che andremo incontro a una temperatura più calda, di abolire per decreto il mal di piedi. Non so se si possa inserire. non lo so, va bene. Se vuole dal 4 maggio o va bene anche a giugno. Tra le cose da abolire. Ah, cioè dice la burocrazia, mai, le province, sì, sì, la pace del mondo, cioè, non da abolire, ma da promuovere. Fame nel mondo, oltre a abolire la fame nel mondo, abolirei anche il mal di piedi. Il mal di piedi. Va bene. Poi questo è il momento. Poi una cosa sui politici, mi pare che al di là della polemica di Zingaretti, così, ma non è l'unico, sono sempre tarati sugli annunci, sull'enunciato. Cioè ognuno va nel proporre le cose più belle, ma diciamo, saremo capaci tutti, bisogna qui formulare delle proposte di come risolverli questi problemi. No, è chiaro, ma anch'io infatti ho un po' sorriso dell'idea eliminiamo la burocrazia, prima perché mi sembra uno slogan che suona come un già sentito, vagamente come un già sentito negli ultimi, io ho 50 anni diciamo, da quando seguo un pochino le questioni, da quando ho 18 anni questa cosa dell'aboliamo la burocrazia, poi si leggono di pari passo questi annunci, si leggono gli articoli come ieri Dario Di Vico sul Corriere della Sera, che un'impresa per ottenere questi 25.000 euro ha dovuto riempire 20 carte e produrre 10 documentazioni diverse, quindi insomma un po' è bello sentire questi annunci, ma poi la realtà quotidiana dice totalmente il contrario. Adriano, la ringraziamo, però abolire il mal di piedi non è male. Tu, Leonardo, avresti anche tu un qualcosa da abolire per decreto? Da inserire? Adesso vediamo. Abolirei adesso ci penso. Io aboliresti e gli abolirebbe, facendo semplicemente la declinazione del verbo abolire, il condizionale. Io voglio chiudere ricordando questa cosa, ieri abbiamo parlato un po' di calcio eccetera, ripeto ancora, non capisco la follia del calcio. Adesso fa scandalo la dichiarazione che ha fatto Lukaku, sì, centravanti dell'Inter, l'hai sentito, che ha detto a gennaio in una partita credo col Cagliari, su 25 della rosa in 20 avevamo tosse, febbre, eravamo malati, un giocatore Skriniar ha chiesto la sostituzione dopo 20 minuti, stava svenendo, non si reggeva in piedi, e Lukaku si è chiesto banalmente, non è che forse eravamo già tutti ammalati in qualche modo, come se lo chiedono tutti coloro che a gennaio avevano polmoniti strane, sì. Cioè adesso scandalo perché l'ha chiesto Lukaku. Pare che sia una cosa acclarata, no? Sentivamo anche ieri di quel prete di Bergamo che diceva che c'è stato un grande incremento delle morti per polmoniti in quel periodo. Sì, il dottore di Bergamo. Sì. Anche il prete. No, ma è chiaro, cioè, adesso perché lo dice Lukaku e tra l'altro questa follia del calcio che vuole ripartire. Per me una incredibile follia, però questo è. Va bene Leonardo, è il momento di chiudere la puntata, è il tuo momento. Oggi che non ho niente da dire dico solo un verbo. Abolirei! Uno, nessuno.